giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione e sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. Benvenuti a tutti e nuova puntata di Giochi sul nostro tavolo. Siamo oggi in due, cioè io, Fabio e Pierluca Zizzi. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. Allora, ci siamo dati anche addirittura un tema per la puntata siamo di stati oggi. Bravissimi. Esatto. E cominciamo a parlare, visto che non tanto tempo fa abbiamo fatto uscire sul blog un articolo dedicato a un titolo nuovissimo, ossia i Monopoli. Già. E allora si è pensato un attimo di partire un pochino di lì, ragionando un po' sul, ma non solo ovviamente, poi divagheremo, abbiamo già programmato anche di divagare, parleremo un po' di questi dei titoli un po' più tradizionali, cioè quelli che ci hanno formati, per modo di dire. La memoria storica. esatto, ma poi il Monopoli, per esempio, partiamo da lui, perché è un po' l'esempio del gioco da tavolo, anche lo accennavo un po' infatti nell'articolo, che la maggior parte delle volte, quando per la prima volta parla qualcuno della mia passione dei giochi da tavolo, mi dicono: ma che cosa sono? Che roba è? Sono curioso, addirittura qualcuno mi ha detto, ma cos'è, tipo Monopoli? Certo, sempre, o Risico o Monopoli, ecco. quello lì è patrimonio culturale di base. E infatti il discorso poi è questo, che ho fatto un po' così per scherzo, mi sono messo lì a scrivere una recensione sul Monopoli, ho visto che effettivamente, per carità, è vecchio, nel senso che è un titolo che ha 80 anni, quindi voglio dire, cioè, è già tantissimo che sia arrivato ad oggi. Osservavo le radici storiche sono più antiche degli 80 anni. Esatto. Prima che uscisse, molto più antiche. Vabbè, la radice storica è il gioco dell'oca, quindi no, sai che la signora che lo ha inventato a scopi educativi, poi gli è stato rubato. Invitiamo le persone all'ascolto ad andarsi a ripassare la storia del Monopoli, perché è molto interessante, che è carina. Sì, ci sono un sacco di cose, ci sono le cause, c'è un sacco di roba, insomma, via. Però il concetto, comunque, adesso analizzandolo un pochino, dici che cosa sono importanti sempre. Io penso che siano sempre importanti comunque questi titoli, perché sono per tanta gente il primo contatto con il gioco da tavolo. Poi l'unica cosa è quella che chiaramente per noi appassionati è un po' limitante che venga identificato il gioco da tavolo in quello, perché come accennavo nell'articolo, dicevo, è un po' come se i videogiochi fossero fermi al Pac-Man. Io faccio l'esempio della musica, invece, dico un po' come se la musica fosse ferma a Bach o a Beethoven, e invece qualcosa il rock ha detto. Ecco. Quindi, cioè, effettivamente c'è anche quel concetto di stop, cioè nella mentalità della gente non c'è stata evoluzione. In Italia aggiungiamo questa triste cosa. E vabbè, da noi, perché comunque il nostro è un mercato che è considerato, a seconda dei casi, o depresso o emergente. A seconda ma gli italiani sono un po' in tutti i campi considerati così. Nel senso che secondo tutti c'è spazio. Oppure esatto. Che stanno scavando qualche fossa. No, ma comunque, andando per esempio al Monopoli, l'ho preso per esempio, ma possiamo anche prenderne un altro di titolo, perché poi ce ne sono diversi di titoli che sono quelli classici, no? Anche se in realtà i Monopoli forse è il più German. Paradossalmente sì, nonostante il dadozzo, ma è veramente... Il che è tutto dire, poi. Certo. Perché comunque è un gioco che in effetti i limiti principali dei Monopoli sono legati proprio alla totale fortuna, no? Però un lettore, ecco, facciamo una piccola sfida, visto che tu sei un game designer, io gioco tanti titoli, piccola sfida, cosa ci metteremo nel Monopoli per svecchiarlo? Allora, innanzitutto io personalmente, che è chiaro, toglierei il dado naturalmente e lascerei un bel numero, tipo 6 carte con un numero da 1 a 6 ognuna, quindi una carta da 1 a, e il giocatore decide con quelle carte dove andare e le scarta ogni volta che le usa, e poi si ribecca il mazzetto quando le ha esaurite tutte e 6. Così il dado le carte e il dado si parlerebbero in maniera diversa, ovvero le carte farebbero decidere al giocatore dove andare secondo una sua strategia personale precisa. Così la prima cosa che ti viene, io diciamo come possibile cosa, innanzitutto riempirei il centro, perché un tabellone vuoto non ha senso, e si potrebbe evolvere il concetto di proprietà, perché in effetti il concetto di proprietà ce l'abbiamo, no? Lo evolvi magari inserendo qualche cosina che consenta, cioè invece di dire pago e costruisco le casette, mettici un concetto, una piccola filiera produttiva, aumenta le risorse. Io metterei da quest'ottica l'opportunità di upgradare, migliorare gli edifici ed evolverli, addirittura, questo è proprio magari un po' troppo ziziano, di mettergli degli abitanti, quindi tu hai i tuoi clienti che girano per la plancia e quando vanno negli alberghi realmente ci sono dei meeple che stanno per, che ne so, 2 turni, e ogni turno che stanno nel tuo albergo pagano, e le abitazioni sono realmente dei meeple che rappresentano le famiglie. Ma vedi, adesso ragionandoci così, uno potrebbe pensare a questo punto che gli omini che girano, i tripoli come li chiamo io, gli omini che girano potrebbero non essere di nessuno. Certo, è un attirare i clienti, gli abitanti, i manager, perché poi chiaramente potrebbero esserci altri tipi di edifici, non solo alberghi, case, ma uffici, nelle stazioni, nelle famose stazioni, cos'era, nord, sud, est, ovest. Esatto, magari facciamo anche l'aeroporto. Certo, facciamo i viaggiatori che vanno e vengono, la stazione di polizia, eccetera, eccetera, carino. Sì, dai, così mi piacerebbe, dobbiamo proporlo. Un po' di controllo territorio in mezzo, cioè le caselle più controllo territorio. Poi in realtà l'asta per le caselle non è una brutta idea. No, anzi. Il problema poi enorme di quel gioco lì, vabbè, in 2 era praticamente inutile come gioco. Sì, il problema è che non scala niente. No, non scala. Non scala niente, perché la sua forza sta nella contrattazione, no? Però poi il problema suo è matematico in realtà, cioè oggi come con gli occhi di oggi, io ci ho giocato, cioè, quando ero ragazzino ci giocavamo, ci passavamo i pomeriggi, ma con gli occhi di oggi in realtà in un certo momento se tu ti metti lì e guardi, cioè una volta che sono finite tutte le distribuzioni dei contratti, potresti fare tranquillamente una predizione matematica di come dovrebbe finire, poi sì, può finire diversamente, sì. A culo, cioè, però a quel punto ti metti a tirare il dado e diciamo chi fa il dado più alto, ecco. Perché una volta che te hai preso, che so, i rossi, i gialli e i verdi, se quell'altro ha preso i blu, gli arancioni e quello che è, col cavolo che matematicamente ha delle probabilità di vincere. Eh sì, direi di sì, è uno dei limiti. Tra l'altro il Monopoli, mi raccontava Spartaco Albertarelli, che la maggior parte delle persone non lo gioca come dovrebbe essere giocato. Sì. Non so se chi ci ascolta sa chi è Spartaco Albertarelli, spero di sì, insomma è uno degli autori più famosi, lavora nell'ambito dei giochi da tantissimi anni, è una persona simpaticissima che salutiamo, ciao Sparta. Tra l'altro è il papà in Italia diciamo serie Monopoli, che è Risico soprattutto. Certo, lui è l'organizzatore di tanti tornei, di tutti questi giochi famosissimi, e ci racconterebbe, se fosse con noi, delle cose che a me ha raccontato, degli eventi veramente incredibili sui tornei, che potrebbero essere oggetto di un'intera puntata. Invitate Spartaco a parlare, perché... Sì, lo so, lui è uno di quelli come... Lo dico scherzando ovviamente, uno di quelli che ci vuole un soldo per farli iniziare a parlare e 2 per farli smettere. Ah sì, sicuramente, anche in questo ci assomigliamo, cioè, veramente lui è un ciarlone come me. Comunque mi accennavi appunto di queste deviazioni, che infatti anch'io ne ho 2 o 3 standard che erano tipiche dei nostri gruppi, ecco. Però. Certo, poi le home rules, uno non ci voglia leggere, dice ma come si farà? Ma sì, le aste facciamole così. Cose terribili. Poi se vuoi parliamo del mitico Risico, adesso che abbiamo citato l'amico Monopoli. Adesso guarda, ti do questa opportunità. Se già qualcuno mi odia per i miei giochi o per altre cose, mi odierà per quello che sto per dire, perché quando parlo di game design con alcune persone che insomma mi chiedono consigli nelle varie fiere o che mi contattano per altri motivi, gli dico: guarda, se vuoi prendere un paradigma assoluto di tutto quello che non bisogna mettere in un gioco moderno di game design, tutti gli errori li trovi più o meno nel Risico. Allora, dimmi, così, dimmi. Sono curioso, perché Risico, così tutti gli appassionati di Risico adesso mi odiano e possono finalmente venirmi a trovare a Play e spararmi. Te lo dicevo perché io lo considero più o meno, adesso penso che prima o poi lo farò un articolo anche di diciamo recensione con parametri nuovi del gioco, e tutto sommato per certi aspetti ti dico le due o tre cose che lo trovo moderno, per le quali lo trovo moderno, così poi me lo smonti. Allora, la prima cosa è quella che comunque ha la componentistica è adeguata rispetto agli standard di oggi. Sì, questo è vero. Perché questo ha un mix, ha le carte, nello stesso tempo ha il discorso i carri armatini, tra l'altro sono tipici della nostra versione. Sì, quindi cioè, diciamo, nell'insieme si presenta in maniera diciamo adeguata rispetto ai standard odierni, cosa che non vale per esempio per il Monopoli tradizionale. Certo. Nello stesso tempo ha un meccanismo un po' ameritrash, cioè tiro dadi, ma nello stesso tempo consente diciamo delle strategie, delle tattichette, delle cose per cui comunque solletica l'animo riflessivo delle persone. Quindi può essere un po' un ponte per certi aspetti. È più chiaramente più ameritrash, naturalmente, come tipo di categoria. Certo. Io non ho nulla contro questa parola ameritrash che molti considerano in realtà una critica più o meno velata. In realtà è un tipo di giochi che hanno i loro limiti e i loro grandi vantaggi. È un genere nel quale c'è più tiro di dadi, c'è più interazione immediata, diretta, chiaramente, ripeto, non è un German perché l'interazione qui è diretta, e ha chiaramente l'aspetto potenzialmente negativo che non c'è un meccanismo di recupero reale, cioè chi comincia, quello che chiamiamo runaway leader, il problema del runaway leader, cioè se uno comincia a rimanere indietro ai primi turni, ben difficilmente recupera. Il secondo problema è anche quello che dell'eliminazione diretta, perché nel momento in cui te esci, dici? Tanti saluti. Ok, vai. Allora, quando racconto di Risico agli amici che hanno la pazienza di ascoltarmi, io dico sempre: vabbè, la prima cosa è quello che hai appena detto, l'eliminazione diretta non deve esistere, soprattutto in un gioco lungo, perché se l'eliminazione diretta viene in un gioco che dura 20 minuti, sai, io vengo eliminato, ma Risico può durare anche 2 ore, 3 ore, 4 ore. Una notte, mi ricordo. E una notte, parte. Sì, c'è gente che lo poi riprende la partita il giorno successivo. Vabbè, quindi questo è un difetto capitale. Poi, obiettivi segreti non equipollenti, potremmo dire. Quindi ce ne sono alcuni difficilissimi e altri facili, più facili. Quindi questo non va bene. Se poi ti diventano alcuni impossibili. Certo, cioè, distruggi il giocatore blu. Magari se siete solo te e blu che giocate, mentre tutti gli altri sono dei pezzenti. Chiaro. Poi c'è il forte meccanismo di 2 contro 1, 3 contro 1, quindi al singolo giocatore possono esserci, contro di lui o a suo favore, possono esserci alleanze selvagge basate solo sulla pura convenienza, e quindi lui può trovarsi contro tutti gli altri giocatori. Questo non si fa, proprio contro ogni concezione moderna e anche neanche troppo moderna, insomma, di buon senso logico. Non posso affrontarne uno, ma non due, non certo tre. Qua ti apro una parentesina, poi per dopo, come memo, sul metagioco diplomatico. Ah, vabbè, quello mi piace molto. Parliamo di diplomacy, dunque. No, il metagioco diplomatico, nel senso che ricordo che giocavo adesso un compagno di gioco che è un po' che non vedo, mi diceva, vabbè, più o meno, come dire, come giocatori siamo più o meno allo stesso livello. Il problema è che tu c'hai questi skill diplomatici, nel senso che in certi giochi come Risico, ma anche altri titoli, effettivamente se uno la sa vendere bene, Ah, certo. Ne guadagna. Ed è effettivamente uno strato potenziale di tanti titoli questo. Allora, poi quando ne parleremo ti farò un racconto, vi farò un racconto interessante che riguarda un tedesco che conosce i giochi. Vabbè, poi dopo. Dai, vabbè, chiudiamo il Risico, chiudiamo la prima parentesi, poi passiamo a metà gioco diplomatico. Il Risico, chi osserva attentamente il gioco si accorge che ci sono dei dadi. Ci vuole un po' per capirlo, ma ci sono. Comunque, chiaramente l'elemento fortuna è molto presente, ma questo può anche non dare fastidio. La cosa che a mio avviso non funziona dal punto di vista del game design è che chiaramente puoi essere sfortunato nel momento sbagliato, quindi quando proprio tu puoi aver giocato anche bene, ma poi i dadi ti dicono che le cose vanno male nella battaglia in cui meriteresti per meriti di gioco di vincere, non succede. Ti attaccano perché 20 contro 5 e rimani 4 contro 4, roba di quel tipo. Esatto, e quindi quello anche non va bene, non va bene. Poi vabbè, la simmetria della mappa, il nostro mondo nel Risico classico, quindi quello è un difetto minore, nel senso che dipende da dove parti, un po' ci sono, insomma, la mappa del mondo non permette un'equa distribuzione della casualità e della strategia tra i giocatori, ma questo capisco che sia una pignoleria mia, un po' così. Sì, poi ne giova l'ambientazione, tutto sommato. Sì. Le varianti di Risico oramai non so neanche quante sono. Tra l'altro, nelle nuove varianti, e qui non me ne vorranno ulteriormente gli appassionati, quindi con la variante in evoluzione, non ricordo il nome, qual è quella, l'ultima uscita, cos'è, 3 anni fa... con Legacy, Evolution Legacy, no? Ho giocato perché ho voluto giocarci. Pensate che sono stato eliminato al secondo turno. Che bello, una bella esperienza è stata. Ed ero circondato da giocatori entusiasti di questa nuova versione e io vi giuro che non ero prevenuto, veramente sul mio onore non ero prevenuto. Ho detto vabbè, avranno variato tutta una serie di cose. Loro giustamente hanno visto che io, non conoscendo bene il gioco, insomma, ho fatto un gioco strategico, insomma, non ho attaccato subito quello che dovevo attaccare, mi hanno attaccato immediatamente, mi hanno eliminato, distrutto, e io timidamente gli ho detto, ma forse c'è qualcosa che non va, ma no, sei tu che non hai saputo gestire il primo turno. Cacchio, ragazzi. Ok, sì, qualche gioco l'ho visto, ma effettivamente non ho gestito il primo turno, e sono stato giustamente spazzato via. Loro hanno giocato resto della notte con te. Ma non è un problema, ero in un posto dove c'erano tanti giochi da tavolo, mi sono preso altri amici e abbiamo continuato allegramente in giochi che non ti distruggono al secondo tour. Sì, quelle cose lì ti lasciano male. È vero che qualcuno mi obietta in queste cose, guarda che in realtà la maggior parte dei giochi, cioè, ti lasciano lì vivo, però sei più vitale, tipo i fermenti lattici dello yogurt, che è vivo, certo. Nel senso che ti tengono lì un po' in animazione forzata perché non ti vogliono far alzare, però in realtà molti titoli, cioè a metà partita hai già capito chi è che può lottare, certo, e chi è che invece è rimasto fuori. Però, da game designer ti posso dire che la maggior parte dei giochi degli autori affermati o pluripubblicati effettivamente si pongono questo problema lo risolvono molto bene, ovvero i punti vittoria segreti, gli obiettivi segreti che si svelano a fine gioco, la possibilità di fare delle combo ben programmate strategicamente che ti danno tanti punti vittoria a fine gioco, e quindi insomma no, ci sono. Sì, poi tra l'altro una cosa che accomuna Risico e Monopoli sono i dadi, che sono considerati così torniamo, ci riagganciamo al discorso iniziale sul gioco classico e quello moderno, sono considerati l'esempio della casualità, no? E quindi il gioco da tavolo, nella logica di chi pensa solo a Risico e Monopoli, è una cosa comunque molto fortunosa. Certo, nel gioco, diciamo, tradizionale, nella testa delle persone che non conoscono il gioco moderno, è così. Ecco. Invece io pensavo, la prima cosa che uno potrebbe ragionare, dire, vabbè, ascolta, ti faccio vedere qualcuno dei numerosi titoli che si sono presi proprio come obiettivo quello di metterci dentro dei dadi per farti vedere che ci puoi fare qualcosa di pianificativo. Certo, io penso certo. Adesso va bene, i giochi di dadi me ne vengono in mente 3 o 4, non so neanche se sono i migliori, però mi vengono in mente 3A, mi viene in mente Massilia recente, mi viene in mente Burgen for Burgund e così via. Certo. Cioè, certo, titoli certo. Nei quali tiri anche manate di dadi, potenzialmente. Ma la casualità viene distribuita e allargata a scelte strategiche o tattiche, molto esatto. Interessanti da parte del cioè, giocatore. Il dado è utilizzato più che altro come randomizzatore, cioè come generatore di numeri casuali, da 1 a 6, per dirlo in termini italiani, più che come elemento, diciamo, decisivo. E questa è la cosa più importante. Poi vabbè, i meccanismi attraverso i quali riescono a ricondurre possono essere vari. No, ma molto interessante. Questo argomento meriterebbe veramente la distribuzione della casualità, non solo attraverso i dadi, nei giochi di ultima generazione, è molto interessante, molto interessante. E anche come la vedono tutta una serie di case editrici o di appassionati, insomma. Ah già, ma ti avevo promesso la cosa sulla diplomazia. Sì. Allora, nell'ultima Essen, al banco dove io, diciamo, giravo quando non avevo gli appuntamenti, è arrivata una persona che è un professore universitario tedesco che voleva parlare con me. Ora, io ho detto, povero uomo, perché vuole parlare con me? Cosa gli ho fatto? Forse avrà giocato un mio gioco, si è arrabbiato. Auspico in inglese. In inglese. Il mio tedesco è poverissimo, quindi non sarei in grado di dire altro che il mio nome. Comunque, alla fine non ci siamo trovati, abbiamo fatto una lunga chiacchierata via Skype. Costui voleva parlare della logica aristotelica in Iperborea. Quindi mi dico costui. Ora, okay. Per fortuna, lui è un serissimo professore universitario che, a parte gli scherzi, pensate alla differenza con l'Italia, propone nei suoi corsi delle attività serissime di game design per educare attraverso il gioco da tavolo. Quindi in realtà è molto seria la cosa, si era informato, sapeva che io sono appassionato anche di filosofia e che quindi saremmo stati in grado di parlarne. Non per dire quanto sono colto, vi dico questo, ma per raccontarvi invece la cosa più buffa e più interessante forse dal nostro punto di vista, abbiamo parlato appunto di diplomazia tra giocatori, del fatto che nei suoi giochi lui spingeva a parlare tra i giocatori, in qualsiasi tipo di gioco, per un'interazione, un accordo, come potrebbe essere in giochi grandi classici come Diplomacy o tanti altri, insomma, Wargame, in cui ci si trova a parte dal gioco e si discute, insomma. E io gli ho detto, c'è una cosa che vorrei fare, mettere dei giocatori di diversa nazionalità intorno a un tavolo e vedere cosa succede. E io ho aggiunto, forse presuntuosamente, ti assicuro che in quel caso gli italiani hanno dei vantaggi reali in più. E lui mi ha detto, da bravo tedeschino, certo, conosco bene queste cose e sì, secondo me a parità di bravura vincono gli italiani. Questo per dirvi che c'è per dire a tutti noi, ma lo sappiamo, che c'è un metagioco anche quando non è permesso dalle regole, che alcune personalità o alcune nazionalità riescono a fare molto bene. Mi ricordo sempre che alla prima partita gli italiani sono stranamente più bravi a giocare ad Anna B. perché non so se parliamo con gli appassionati che sentiranno questo. Giocata ad Anna B è un gioco che non dovrebbe permettere nessuna interazione. Non si dovrebbe poter dire nulla. Esatto, nulla. Ma gli italiani o non riescono a non dire nulla, e questo è un primo problema, oppure riescono a farlo fin troppo bene. Pazzesco. Ma io per primo, che non ci tengo molto alla vittoria, che mi piace così, non riesco a trattenermi dal fare delle determinate espressioni, movimenti, micro movimenti del viso, che sono tipiche nel nostro popolo. Quindi in realtà su questo argomento e sull'interazione umana emozionale tra giocatori, se ne potrebbe discutere molto, secondo me, ed è una delle cose che sarebbe da tenere in considerazione da molti game design. Guarda, prendo la palla al volo mentre la stai tirando, e così mantengo il tema della giornata. Nel Monopoly, una delle varianti che avevamo sviluppato era una variante che in realtà non è antiregola, eh. La variante era questa, semplicemente nelle trattative comparivano anche delle forme di esenzione. Cioè, tu mi dai il palco della vittoria, ok? Io te lo compro, te lo pago, eccetera, eccetera, e per i prossimi tre passaggi non paghi. No, però un agreement oppure, proprio da contratto di esclusività. Oppure io con te, cioè io a te, io me lo dimentico con te, perché cioè la regola dice, la regola vera del gioco, se non ricordo male, perché è tanti anni che non ci gioco, diceva che se il giocatore si dimentica di chiedere la vendita, la perde. La perde, sì, sì. Okay, questo, quindi, io temo, caro dimentico. Fabio, che il tuo mestiere di avvocato c'entri con queste home rules, sai? Ma questo sono quasi certo. Non lo ero ancora, eh. Non lo ero ancora. E vabbè, però c'erano... In potenza c'era questo seme. No, ma c'erano queste cose qui, ma anche cose poi similari, se vogliamo. Cioè, nel momento in cui prendo il prossimo, se io capito lì, lo prendo io e te lo do subito al prezzo di copertina. Cioè, degli impegni per il futuro. Certo, certo. E questo comunque rende, poi, cioè, alla fine... Sapendo che riuscivi, cioè bisogna essere creativi, no? Chiaro, chiaro. Avresti dovuto mettere il diritto di prelazione, contratti agevolati d'affitto, queste cose. Vabbè, vedi che abbiamo altre idee per migliorarlo sto gioco. Ma certo, certo. Oh, questo sicuro sarà un miglioramento. Guarda, lo compreranno tutti, Fabio. Ne siamo proprio convinti. Vabbè, guarda che è che stiamo lontani. Se no, secondo me, alla fine di questa telefonata, secondo me ci metteremo lì a dire, ascolta, ma potremmo anche pensarci, no, a fare questa modifica. Che se per sbaglio pubblicano facciamo un ballino di soldi. Ne ho avuto in mente di fare una versione del Monopoly modernizzata tantissime volte. Guarda, tantissime volte, senza dado, con tutta una serie di cose che abbiamo detto. Però la mia domanda a cui non ho trovato risposta è: a chi lo propongo? è questo che non saprei come affrontare un editore versione. Questo non sarebbe in realtà non sarebbe un problema, anzi, probabilmente avresti il vantaggio di poterlo proporre a editori grossi. Può essere. Perché, vabbè, ci pensiamo, lo facciamo insieme, Fabio. vedi, te l'ho detto, perché stiamo un po' lontani, sennò magari sai a magia di una serata di gioco, no? Hai fatto un paio di cose, dai una certa ora, dici, vabbè, adesso a mezz'oretta la dedichiamo al nostro prototipo, è che noi stiamo lontani e quindi diventa difficile. Guarda, però... ho collaborazioni con autori stranieri, non è un problema. Un autore che vive in Germania, italiano, ma vive in Germania, capito. E che tu conosci. Capito, sì. Capito, con cui ti trovate benissimo, so, eh? Sì, sì, sì, tra l'altro adesso non siamo ancora riusciti a piazzare dei giochi, però insomma, se vuoi poi ti racconto in prima. Comunque niente, diciamo adesso, il tema della giornata l'abbiamo sviluppato parecchio, comunque dicevo l'ultima cosa su questo aspetto diplomatico, anche Catan che è uno dei grandi classici, è un po' il suo bello, cioè se tu ti trovi, io ho giocato un tempo fa, una quindicina di giorni, 20 giorni online a Catan, sì. Però effettivamente è appiattente. Certo. Perché certo. Semplicemente online non tratta quasi nessuno, perché poi online vuoi fare la partita più veloce, tratti proprio per tutte le trattative veloci e basta. Il bello del gioco è la trattativa, e la trattativa rende vincibile una partita anche da chi è messo peggio, perché con quello che è messo peggio tu ci scambi volentieri. Quello che dici va incontro a una delle motivazioni, a mio avviso, principali del grande successo o comunque della mancata flessione del mercato dei giochi da tavolo, ovvero i videogiochi che hanno tutti i vantaggi che sappiamo hanno da tanti anni, non hanno l'interazione umana intorno al tavolo. Anche senza diplomazia, intendo, sì. Proprio il fatto di ridere se cade la pedina e ne abbatte un'altra, per dirne una proprio banale, oppure il fatto che ci si racconta tra una mossa e l'altra cosa hai mangiato la sera prima, è qualcosa che insieme al calore dei materiali, al fatto che il prototipo o il gioco reale è fisico, è vero, viene percepito tutto in maniera diversa, e anche la diplomazia, la contrattazione, anche la minaccia addirittura buffa tra amici: se non mi dai questo il tuo prossimo turno ti faccio di tutto. E torni a casa a piedi. L'ho fatto. Ho visto gente quasi arrabbiarsi. La settimana scorsa a un gioco simpatico, Cargo Train, un gioco polacco che abbiamo scoperto così, ci sono dei momenti di piccole cattiverie, e in occasione di un paio di queste ho minacciato palesemente, dice: beh, sai che devi tornare a casa con me in macchina, vero? Già, sì. Capisco. Diplomazia. Chiaro, infatti, una mancata diplomazia, se si vuole. No, diplomazia è anche quello, nel senso che la diplomazia è fatta anche di bullying, come dicono gli americani, certo. Di fare un po' i gradassi, scherzo, vabbè. Vai, non ti volevo interrompere. No, ma ho finito. Poi altri classici, di cosa possiamo parlare? Dei giochi forse più verso gli anni 80, 70, per famiglie, non so, Pictionary, classici, queste cose così. Ecco, no, più che altro mi è venuto in mente il Trivial. Ah, è vero, il Trivial, che il dio dei giochi da tavolo mi maledica, lo stavo saltando. No, perché è un altro dei titoli che comunque trovi sempre e che è considerato moderno. Certo, e non lo è per niente. Mamma mia, ragazzi, moderno come lasciare la doppia. Veramente, no, vabbè, chiaramente Trivial giudicato scherzosamente per il game designer moderno, è un gioco antichissimo. Per chi ci ascolta deve sapere che anche se non ci avete mai giocato, ci sembrerà strano, ma può succedere, che ha dei difetti capitali terrificanti. Io posso, professore, sbalzando la mano. Adesso passo la palla e fai tu. No, allora, la cosa è quella. Prima cosa, è un titolo che può essere maledettamente antipatico per una fettona di persone. Certo. Ne parlavo con quando sono andato a fare l'igienista dentale. Ci vediamo ogni 6-9 mesi per la pulizia dei denti, e lei sa che sono appassionato e quindi mi parla delle sue esperienze di giochi da tavolo, che sono il Trivial. Ah, ecco, alleluia. E si lamenta dicendo che molti non ci vogliono giocare. Ma che strano. Ma io dico, guarda, che il problema enorme di quel titolo lì è: la primissima cosa, è un titolo molto nozionistico. Sì. E quindi il discorso è che semplicemente chi ha meno nozionismo diffuso, magari uno può essere anche un genio della matematica, però se non ha imparato tante altre cose, quel gioco lì nulla. Cioè è molto nozionistico, è freddo, perché comunque fai la domanda e rispondi alla domanda. Poi hai voglia di dirmi: facciamo il gruppo e ci dividiamo, eccetera. Però io mi ricordo un periodo che uscivo con un amico molto nozionistico, molto nozionista, e praticamente diceva: vabbè, giochiamo io e te contro tutti gli altri. Perché lui era molto nozionista su alcune materie, io praticamente lo completavo, perché comunque lui aveva un buco totale tipo in sport spettacolo, come ce l'avrei io tranquillamente, cose del genere, quindi gli serviva qualcuno. Io me la caricavo anche sul resto, però sul resto lui è più forte. E comunque diceva: no, mi vai bene te, a questo punto facciamo io e te contro il resto del mondo, no? Perché si sentiva che... Però il problema è che effettivamente gli altri non si divertivano un cavolo. Certo. Poi nel Trivial, sappiamo, c'è il problema, non ci giocano un po' di anni, dell'arrivare con la torta e le fette di torta, sì, al centro giusto. Sì. Puoi tirare un numero infinito di volte, però se poi sei bravo e rispondi sempre, alla fine, cioè sei te che rispondi a 2000 domande, gli altri stanno lì a guardarti. Cioè, e poi mi dice: impariamo qualcosa, mi dice lei, perché questa ragazza è molto ottimista. Dice: no, però impariamo qualcosa. Cosa vuoi imparare? Cioè, ti dicono chi è stato il presidente delle Nazioni Unite quando hai comprato il gioco. Ma poi queste cose nozionistiche ripassate, diciamo così, in questo modo, vengono cancellate dal nostro cervello in circa 2 secondi dopo la risposta. Quindi. Esatto. Infatti io tutto sommato gli avevo detto: prova anche qualcosa di leggermente diverso. Prova tipo Anno Domini, che... come dire, metti in ordine delle date, magari prova altri titoli dove inseriscono meccaniche di scommessa, ci sono dei giochi dove puoi fare scommesse su chi indovina, quindi in sostanza tu puoi vincere anche non indovinando niente. Sì, questo ti rimette un pochino in gioco, ecco, come hanno svecchiato titoli come quello. Però nonostante questo, il Trivial credo che rimanga uno dei più venduti. Beh, sì. Vedo titoli nei supermercati, nella grande distribuzione, sì. Non sempre c'è Trivial, anche perché ha un costo forse un pochettino più elevato, però verso Natale esce fuori anche nei posti dove normalmente non c'è. Quindi, ecco, molti. Invece una cosa che ti chiedo, ci sono dei titoli, tipo Visual Game, Tabù, Pictionary, roba del genere, che vendono, che sono party game, quindi a tutti gli effetti, non hanno gli stessi difetti che hanno tanti altri, e quei filoni lì vedo che invece non sono per niente sfruttati dal mercato moderno. Allora, io temo che la motivazione sia che le persone in generale, quando si intrattengono in piccoli gruppi, si trovano la sera, non sempre hanno diciamo così l'incentivo ad avere un'interazione di quel tipo, ma preferiscono magari avere qualcosa di più nozionistico, come potrebbe essere nel caso di Trivial, o razionale come negli altri giochi che abbiamo detto, quindi tiri il dado e succede qualcosa, perché il coinvolgimento che ti dà Tabù, per dirne uno, non è per tutti, anche in quel caso, e siamo sempre meno abituati, con una nota di tristezza da vecchio, insomma, forse, non lo so, ad interagire in quel modo, perché una volta me ne sono uscito con una volta, terribile. Comunque, i ragazzini che potevamo essere noi probabilmente erano più costretti a disegnare, a parlare, e quindi c'era più facilità di interazione. Forse è questo che è una delle motivazioni per i quali quei giochi esistono ed esisteranno sempre, ma hanno meno successo dei giochi più, tra virgolette, di minore interazione di quel tipo, dove perdi meno la faccia. Guarda, io ti dico che secondo me un pochino l'hanno ripreso quel filone lì giochi come Dixit e Resistance. Sì. Certo. Nel senso che anche comics della Horrible recente, certo. O comunque titoli tutti di, perché diciamo un po' lo storytelling, cioè il racconta storia, è un po' sfruttato in questo periodo, certo, qua almeno. Sì. Secondo me è stato un po' fermo per ragioni culturali, perché la Germania da quello che ho colto, così dalle poche chiacchierate che ho fatto con editori o esperti, in Germania c'è meno apertura mentale verso quel loro tipo di situazione, cioè loro proprio si rimangono lì ingessati. Sì, loro non ce la fanno proprio, possiamo dircelo. E quindi, siccome i nostri giochi moderni devono molto al German Games, adesso siamo Euro Games, prima erano German, certo. Probabilmente quella ne trovi pochi di titoli così, con questa interazione a parole, a scritto, a gruppo, fra virgolette. Ci pensi, i titoli che tu hai citato, quelli nuovi, non sono tedeschi, esatto. Non sono tedeschi, e anche quelli tedeschi che ci vanno vicini, i giochi che potrebbe fare Carlo Emanuele Lanzavecchia per capirci, Mago Charlie se vogliamo, anche quelli prodotti dai tedeschi in realtà sono tedeschizzati, perché c'è un elenco di nomi tra i quali devi scegliere, devi ricordarti, sono più, diciamo, intellettual mnemonico razionali che uno come Dixit, che invece è proprio la fantasia, l'associazione mentale libera, bellissimi, stupendi, che hanno anche dato una mezza rivoluzione, perché poi ci sono tanti cloni o tentativi di cloni. Ma poi cioè, il bello di Dixit per certi aspetti è la sua, non l'hanno fatto, però è uno dei pochi titoli che sarebbe proponibile anche come ponte in un centro commerciale, cioè certo, vedono le carte e potrebbero anche comprarlo, poi una volta che entrano in quella logica lì magari gli dai qualcosa di diverso. Sai perché non lo fanno? Non lo fanno secondo me perché dovrebbe esserci una campagna pubblicitaria, sì, cioè, in televisione. Cambia la logica completamente, certo, sicuro. Cioè non te lo comprano, non sanno che cos'è questa roba con su scritto Dixit, e neanche sotto Natale te lo comprerebbero. È tristissima questa cosa, ma è così. No, ma poi guarda, ti seguo perché, cioè, negozio, io sto in una città di circa 100.000 abitanti, che non è certamente grande, però non è neanche micro, va. che i negozi storici di giocattoli non hanno neanche uno dei titoli moderni, tengono soltanto i titoli, certo, gioco, certo. Gioco da scatola, il gioco in scatola è una micronicchia nel negozio di giocattoli, perché comunque non ne comprano così tanti come i pupazzetti, come i giochini, eccetera, certo. E in quella nicchia lì dominano comunque i titoli tradizionali, cioè ci sono sempre comunque i Monopoli, ci sono i giochi del 2000 adattamenti, ci sono i giochi, quelli che abbiamo citato prima, e poco di più. Cioè ogni tanto compare una scatola di qualcosa sepolta che magari va via a Natale, perché a Natale, certo, hanno finito tutto il resto e dicono guarda c'è questo, se vuoi un gioco in scatola, che roba è come Monopoli. Sì. Tra l'altro mi fa molto piacere constatare in alcuni miei amici che ogni tanto mi prendono da parte e mi dicono ma sai che ho provato dei giochi di quelli che forse fai tu, ma sì adesso non ricordo, c'è da estrarre delle tessere da un sacchetto e metti un omino su un territorio. Difficilissimo. Difficilissimo, no ma è bellissimo, quindi in realtà... Secondo me è tutta una questione di opportunità persa da parte di tantissimi imprenditori che non capiscono o semplicemente per convenienza di altro tipo e non conservatorismo non vogliono capire che le persone veramente rimangono, impazziscono. Conosco un paio di miei amici al quale io non ho fatto mai giocare niente, che sono diventati gli appassionati di giochi. Piccoli appassionati di giochi dopo aver giocato appunto a Carcassonne di cui si parlava prima, i coloni di Catan, che ma voglio dire, sai qual è il problema? A mille espansioni. Il problema è quello che dovresti metterci un omino dentro la scatola. perché guarda, quello che noto è che se tu vai a una fiera, ok, alle fiere di solito chi ci va c'ha è indirizzato, no? Però alle fiere, il giocatore casuale alle fiere gioca quasi tutto. Cioè, sì, basta che ci sia uno al tavolo che gli spiega le regole, che quando c'è il dubbio gli risponde, ci gioca, ma volentieri, si alza felice. Il problema è che poi non ha la minima intenzione, cioè se compra esclusivamente quello che ha giocato, perché non c'è più necessità di leggere le regole. Sì. Cioè, una delle cose che mi diceva Spartaco, tra l'altro, i tempi che l'avevo conosciuto, mi diceva guarda che da noi il macello è che quando un gioco ha un manuale che è più di fronte retro non te lo comprano, cioè non abbiamo proprio voglia noi di leggere, dice guarda che il problema è che non leggono i libri si ribalta anche sui giochi, cioè non hanno voglia comunque di mettersi lì e leggere un manuale serio, cioè tieni conto che un manuale serio normalmente meno di 6-8 pagine non lo è, Sì, di solito sì, non sta anche con l'immagine, arriva quella cifra lì. Sì, poi e molti di quelli più leggermente più complicati sono fra le 12 e le 16, ecco. Quindi il concetto, quindi il concetto sta nel fatto che dice no, cioè qui siamo proprio sul basico, cioè non c'è proprio la voglia mentale lì. Poi se tu glielo spieghi, sì. Infatti io ho visto che c'era un periodo che ero facevo più proselitismo immediato, adesso lo faccio via virtuale. Il proselitismo immediato, vedevo che praticamente quasi chiunque portavi in casa a giocare tornava. Ah sì, è vero. Ah, ho ricordato una cosa, non abbiamo citato un tipo di giochi che andava alla grande negli anni 80, cioè? E sono i giochi giocattolo di logica, tipo il cubo di Rubik, sì, che è un'altra cosa, non sono giochi da tavolo, ma... Da tavolo c'era Mastermind, Mastermind, cioè. Mastermind, e quello secondo me è un tipo di giochi che non sto capendo se sta ritornando, se non sta ritornando, e se è ben conosciuto in realtà, perché nel nostro paese come nel mondo tutti conoscono il cubo di Rubik, ma che è un giocattolo in realtà, un giocattolo logico, ma Mastermind poche persone se lo ricordano. Ma sai cos'è? Che secondo me, ecco, già il Mastermind è meno classico. È meno classico nel senso che è rimasto di meno, certo, rispetto ad altri. Certo. Cioè, per carità, voglio dire, secondo me negli astratti Hive, che è un gioco molto bello, che eccetera, potrebbe diventare un classico. Per darti l'idea. Nello stesso modo, il Mastermind quando è uscito ha venduto parecchio. probabilmente continua a vendere un suo filo, però non ha avuto nella mentalità collettiva lo stesso impatto che degli altri titoli di cui abbiamo parlato. Quindi sì, di logica ne vedo in giro, perché comunque l'astratto attira. Sì, ce n'è comunque. Anche nei negozi di giochi un qualcosa tipo quarto ogni tanto sì, spunta. Ci sono a balone. Bei componenti, comunque un mix. E poi attira perché per loro il target sono i giocatori di scacchi dama. È quell'ambiente lì. Perché comunque è una nicchia, no? E magari dice, vabbè, occasionalmente fa una partita e l'altra posso mettere qualcosa di diverso, ecco. Però sono un po' focalizzati verso quel target lì, cioè il problema è quello, non ampliano. Poi non abbiamo parlato di un altro tipo di giochi a me molto cari, che sono i giochi di ruolo. Capisco che siamo un po' fuori da quelli che sono i nostri soliti argomenti, però è importante dirlo, perché ti ricordo e ricordo a tutti coloro che ci ascoltano che c'è stato un boom, una vera esplosione nucleare dei giochi di ruolo negli anni 80, a fine anni 70, inizio anni 80, fino a tutti gli anni 90, che ha avvicinato il gioco di ruolo al gioco da tavolo classico, diciamo così, e viceversa. Io che conoscevo poco l'uno e poco l'altro, in realtà ho trovato appassionati dell'un tipo e dell'altro tipo in tutti e due gli ambienti, insomma, un po' con l'inquinamento leggermente di inquinamento in senso positivo dei wargamisti, che sono un'altra categoria di altro tipo, che non ce ne vogliano se non li citiamo, ma effettivamente è un argomento molto specialistico quello dei wargame, che io conosco, ma è un'altra trattazione, ecco, mettiamola così. Ma guarda, la cosa che mi lanci è anche una riflessione un po' su quanto è parcellizzato, diviso il nostro l'ambito dei giocatori. Cioè, quando tu vai a Essen, dici, come cavolo fanno a uscire 600 titoli? Escono 600 titoli perché appartengono a 60 filoni diversi. Sì. E comunque, io personalmente, da giocatore, diciamo, ci sono molti che maledicono questa cosa, perché dicono questa parcellizzazione ci uccide, no? Però il concetto è che da giocatore dice, vabbè, io so che comunque ogni anno, anche se sono appassionato di uno specifico settore, mi uscirà talmente tanti titoli che posso scegliere. Certo, è vero, questo sicuramente. Il giocatore di wargame storici della Seconda Guerra Mondiale sa che ogni anno almeno 4-5 titoloni se li becca, come anche l'appassionato di giochi astratti sarà sempre contento Tu per andare a Essen, anche avendo una sola specifica passione, vero. E semplicemente vuol dire che c'avrai l'elenco dei tuoi stand dove andare. C'è un amico che mi ricordo che avevo conosciuto in aereo, che mi diceva che faceva questo, cioè lui aveva un elenchino specifico e lui praticamente andava durante la fiera in 10 stand. Pazzesco, mi sembra talmente incredibile, pure vero, è chiaramente vero, ma mi sembra folle dal nostro punto di vista. Ti fai conto, se a me interessano solo gli astratti, cioè io so che comunque ci metterò tutta la fiera a vederli tutti, eh? Sì, certo, è vero. Questo si faceva il suo giro solo fra quelli, oltretutto era anche abbastanza tranquillo e felice, perché dice, beh, figurati, cioè non è che trovo coda a coda, sto lì 10 minuti e poi prima o poi gioco, no? E poi il bello è che giochi proprio con chi l'ha inventato, quindi per lui è, dice, mentre normalmente no, lì gioco con chi l'ha inventato e ho subito un avversario forte. Sì, è vero, tra l'altro i giocatori di giochi astratti sono molto competitivi, cioè estremamente come i giocatori di scacchi, la mia mente contro la tua mente, vediamo chi è più figo. Sì, loro se lo studia prima, arriva là che l'ha già imparato, certo, quindi certo. Poi gioco con l'autore, vediamo come va, cioè c'era questa logica qua, c'aveva. Sì, in questo faccio una piccola parentesi, quest'anno per la prima volta sono andato alla Fiera Internazionale di Cannes, quello che si vede a Cannes è completamente diverso da quello, sostanzialmente diverso da quello che si vede a Essen, benché siano manifestazioni che hanno già di base delle differenze, però chiaramente la visione francese è ad esempio... molto molto diversa, molto diversa da quella tedesca, quindi a Essen c'è spazio un po' per tutto, ma chiaramente è una fiera più dedicata al gioco da tavolo, diciamo delle grandi case con piccoli spazi per le case un po' più piccole, ma tutti hanno il loro spazietto, quindi sì, puoi trovare più o meno tutto. In Francia non è così. In Francia i francesi intanto sono quelli che occupano la stragrande maggioranza di tutto, sì, manco a dirlo, però comunque è una fiera internazionale e in sì, realtà è una fiera francese, diciamocelo così sì, com'è, non c'è molto spazio peraltro, tanto che alcune grandi case editrici mondiali non ci vanno, la stragrande maggioranza sì, delle altre. C'era Filosofia che per chi ci ascolta è canadese, però in realtà è americano-canadese, di tedeschi c'erano pochi, veramente c'era qualcosina di case tedesche, non c'era Sing Look, giusto per dirne una, sì, che, visto che li conoscono, loro non c'erano, e tanti altri. E poi i francesi sono più simili agli italiani, manco a dirlo, si fermano molto, gli piacciono molto i party games, i giochi di interazione, come abbiamo detto, quindi no, è interessante. Vi invito ad andarci anche vicino all'Italia, è un bel posto, insomma, molto bello, molto bello. Va bene, via. Ascolta, più o meno abbiamo fatto giornata. Ah, direi di sì. E niente, ringraziamo tutti per l'ascolto, speriamo che gli spunti che abbiamo dato possano esservi interessati e vi diamo appuntamento a questo punto alla prossima Bat puntata, sto il solito Bat canale. Ringraziandoli per l'ascolto, visto che non sono certo pochi, grazie a tutti. Ancora, ciao ciao. Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.